sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu è curato becchino da parenzo, de. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ieri ero a lavare la macchina all'autolavaggio a gettoni vicino a Firenze e mentre cambiavo appunto i gettoni c'era un ragazzo che aspirava l'automobile che ascoltava la zanzara a tutto volume. Appena mi ha visto mi ha guardato, io l'ho guardato, lui mi ha guardato, io l'ho guardato e ha abbassato il volume. Io ho detto: fratello, alza tutto spiano. Ragazzi, non è possibile, ormai al lavoro non faccio più un cazzo, conto solamente quanto tempo manca la zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Siamo in attesa di collegarci con il signor Davide Parenzo. Siamo in attesa di collegarci con il signor Davide Parenzo che si è dato latitante. Si è dato latitante. Doveva essere in diretta con ore 18:30 e invece gigioneggia e straparla a Capri. Si trova a Capri. Amico mio, lì te lo dico da amico. Gatta cicova lì. Capri, alberghi lussuosissimi a Capri e io pago. Vabbè, ma si presenterà. Vi faccio sentire in apertura di questa giornata in cui non c'è veramente una mazza da dire, ma troveremo sicuramente qualcosa. E vi faccio sentire il mitologico Adinolfi. Sapete chi è, no? Quello della famiglia, super cattolico, eccetera, eccetera. Sulla frase di Madonna, io votate Hillary Clinton e faccio a tutti un pompino, lo faccio molto bene, vi guardo negli occhi e lo faccio anche molto lentamente. Questa è la frase testuale, l'ha detta Madonna, cioè non ci si può sbagliare qui pubblicamente durante un concerto, comizio concerto a favore della signora Clinton, eccetera. L'abbiamo già detto, abbiamo già dato. Adinolfi ha una teoria molto singolare su questo. Adinolfi, io capisco il cattolicesimo, capisco che uno, per carità, il sesso viene vissuto dalle persone molto molto credenti in un certo modo, in realtà poi non è così, sono i primi grandissimi peccatori, e però c'è un elemento fondamentale che riguarda la fellazio. La fellazio è, come dire, il fulcro quasi dei rapporti, il fulcro dei rapporti uomo-donna. Secondo Adinolfi è un atto di dominazione del maschio sulla femmina. Dominazione, ma siamo alla follia. Ma io non credo che sia una cosa che fa piacere alle donne, fa piacere ai maschi, è un atto, ripeto, di dominazione del maschio sulla femmina. Se da questo punto di vista si aprisse una riflessione, penso che si potrebbe ragionare sul fatto che una donna che lo proclami e lo sventoli come bandiera per una battaglia politica sia come minimo fuori dalla dimensione della dignità femminile. Allora, io tornerei ancora una volta su questo concetto. Elemento vergognoso di dominazione maschile. Adesso, qui all'ascolto ci sono molti uomini, anche per fortuna le donne. Io credo non ci sia una persona, magari la troviamo oggi, la scoviamo negli anfratti degli ascoltatori della Zanzara. C'è qualcuno che magari è estremamente credente, qualcuno che ne so, di Comunione e Liberazione, anche se sono dei porci pazzeschi quelli di CL, perché li hanno conosciuti, di maiali incredibili, cioè maiali in senso buono, porci in senso buono, cioè persone affezionate alle pratiche sessuali. Allora, io credo non ci sia una persona al mondo, poi dice Adinolfi perché piglia lo 0, tot. Amico mio, se dici che la fellazio, i pompini, quello che è, hanno varie declinazioni anche nelle diverse nei diversi dialetti italiani, sono un elemento vergognoso di dominazione maschile, vergognoso di dominazione maschile, e poi dici non piglio voti. E beh, te credo che non pigli voti. Pettorale non piaccia alle donne e che sia un elemento di degradazione della donna molto, molto netto. Non credo ci sia una pratica più violentemente sottomissoria, potremmo definirla così, di quella pratica sessuale, quindi in cui si concentra a cercare il piacere del maschio con un'attitudine di sottomissione da parte della donna. Così. Abbiamo parlato esplicitamente di pompini, proprio sì. È una pagina su cui ci siamo allenati a provare a capire se questo è un elemento di piacere per la donna o se forse è un altro degli elementi forse dai più vergognosi di dominazione maschile dal punto di vista anche del rapporto tra i sessi. Allora io credo non ci sia una persona, tutto questo avveniva dagli amici di Cusano Campus, e io dico tutto questo, io credo non ci sia una persona, una donna che creda di essere dominata mentre fa quei lavoretti di quel tipo. Non c'è una donna, caro Adinolfi, non c'entra niente. La dominazione maschile, la donna che si sente dominata nel fare quello che Madonna vorrebbe fare a tutti gli elettori di Hillary Clinton, non ce n'è una. Allora, a Catania insistono soprattutto le persone intorno alla ragazza morta, drammatica la vicenda, la ragazza morta nel corso di un aborto, eccetera, eccetera. E soprattutto il padre giura e spergiura che quel medico lì a un certo punto ha detto: io voglio provare a salvare quel veto fino alla fine, dunque ha fatto morire la figlia. Mio genero era entrato pure nel frattempo. Gli hanno detto fate qualcosa, e sto medico al mio genero là dentro si è detto: guarda, finché i cuori battono io non procedo perché sono un obiettore di coscienza, lo giuro su Dio quello che sto dicendo, lo giuro su Dio, mi dovrebbe punire Dio se dico il falso. Avete sentito, hanno messo la musichetta sulla testimonianza drammatica del padre, si chiama Salvatore Milluzzo, della ragazza, una storia incredibile, hanno messo la musichetta della tristezza, mattino 5. Allora, ve lo ricordate quello che veniva considerato Dracula, l'ex ministro Visco? Sostiene, a proposito della vicenda dei contanti che è tornata all'attualità in queste ore, che chi ha i contanti in mano o è un evasore o un corruttore o un mafioso. Cioè, se voi avete a casa, che ne so, 2000 euro, 3000 euro, immagino si parli di questa roba qui, perché se uno ha 500 euro, io non ho mai avuto contanti in vita mia, ho sempre 30, 40 euro al massimo, cioè odio i contanti, pago sempre con le carte di credito ovunque, anche quando pago 10 euro, 12 euro, mai avuto contanti in vita mia, però non considero un criminale che ha dei contanti. Oggi certo bisogna dare delle spiegazioni, però Visco, l'ex ministro, ve lo ricordate, quello soprannominato Dracula dall'opposizione all'epoca, dice che chi ha contanti è un evasore, un corruttore o un mafioso. Voluntary disclosure sul contante detenuto in Italia. Lì siamo veramente al riciclaggio di Stato, insomma. Quelli che c'hanno contante sono o evasori fiscali e non si capisce perché deve sparire il fatto che quello reato, corrotti, corruttori, estorsori, cravattari e mafiosi. Beh, possiamo aggiungere qualcos'altro, eh. Qua bisogna dire, dipende da quanti soldi, no? Vabbè. Mi trovo in Lapponia, 300 km a nord dal circolo polare artico, e ascolto la Zanzara. traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, questo è accaduto ieri, vi faccio ascoltare un tipico tentativo di intervistare Vittorio Sgarbi. A un certo punto lo chiamiamo nel pomeriggio per registrare una cosa con noi e succede quello che succede, sentite. Siamo qua. Pronto? Eccomi. Ciao Vittorio, come stai? Bene, divertente ieri sera, sei stato bravo come sempre. Ah sì, vabbè, dai Vittorio, niente di particolare. Devi sapere, Parenzo, che l'altra sera eravamo insieme a cena, alle 2 di notte, gli spaghetti, solito rituale sgarbiano, e Vittorio era incazzatissimo, furibondo, per questa storia dell'UNESCO e dello sgarbo fatto a Israele per non aver considerato i nomi in ebraico dei luoghi sacri, no? È incredibile, da fare un casino su questo. Questo UNESCO è una merda assoluta. Sì, un gruppo di gente che ruba soldi andando in giro per il mondo per vedere i siti, sbaglia i siti perché non ha messo né Lecce, né Viterbo, né Padova tra i siti dell'UNESCO, poi in compenso quando indica Gerusalemme la indica solo in arabo. Quello è un luogo di cultura araba, ebraica, musulmana, ebraica, cristiana, e tu lo usi in quel modo. Ma brutti, bisogna rifiutarsi di essere il gruppo dei luoghi citati dall'UNESCO. Chiudiamola sta UNESCO, non conta, cioè, non vale un caso. Non conta, io lo dico da sempre, cioè, io sono per l'UNESCO, sono contro l'UNESCO. Quando c'è una città che mi chiede, io sostengo il patrocinio, dico, scrivete fuori, Lecce non è patrimonio dell'UNESCO. Bellissimo. Viterbo non è patrimonio dell'UNESCO. E Giotto e Padova che danno lustro all'UNESCO, non il contrario. Sembra che essere dell'UNESCO sia come lo stemmino di una specie di aristocrazia. Vaffanculo. Ma saranno una manica di papponi che prendono stipendi, sì. Stipendi tutti pazzeschi. Tutti i soldi che hanno li spendono per stipendi. Ma l'UNESCO, come dimostra in questo fatto qui, fanno un uso politico dei monumenti e della storia dei paesi. Sì, anche questo. Anche un uso politico, un sequestro dei monumenti. Hanno sequestrato Gerusalemme questi infatti. Altro che Bob Dylan che ha meritato il Nobel. Questo è stato proprio di un comportamento ridicolo in cui l'UNESCO offende civiltà, e l'Italia si è astenuta dando ragione all'UNESCO. Questa Italia di barbari, di incapaci, di vigliacchi ha avuto paura di dire il mondo ebraico va rispettato. Ma tu pensa che paese di merda abbiamo, che governanti di merda abbiamo, che rappresentante coglione abbiamo. Senti una cosa, ma a proposito, siccome Renzi vuole fare il condono, ma tu che hai un sacco di robe con l'Equitalia, che atteggiamento avrai? Utilizzerai il condono di Renzi? Mi consenta di non regalare soldi a uno stato criminale. Ti pare che devo pagare le tasse per la nuvola di Fuxas o pagare le tasse per il palazzo di giustizia di Firenze o per le paleoliche e le rotatorie? Io pago le tasse se lo Stato fa quello che è giusto e opportuno per mettere a posto le città. Con le multe sono una forma di ricatto dei comuni per fare cassa, quando Roma per esempio non conosce l'entità del suo patrimonio e non pagano le tasse per migliaia e migliaia, l'affitto per migliaia e migliaia di edifici. Quanti pendenze hai tu di multe? Quanti soldi devi dare? Un sacco? Sì. No, perché sono collegato con Barbara D'Urso in questo momento. Come sei collegato con Barbara D'Urso? Non ho mentre parlo con te sono collegato con Barbara, sai che faccio? Sono un futurista, ho finito la lezione su Giotto a Padova, sto collegato adesso con Barbara D'Urso mentre parlo con te. Ma scusa un attimo, quanti soldi devi dare da Equitalia tu in tutto? Che ne so, milioni di euro? Milioni? Ho fatto la rateizzazione, ma sono convinto che sia sbagliato dare anche quelli. Ma quanti sono? 5, 6 milioni, 7? Quanti sono? Non lo so, non voglio saperlo. Non lo vuoi sapere? Cioè ti rifiuti di affrontare la realtà? Non possono essere più di quello che ho guadagnato. Una vecchia, un'antica regola è questa. Quando tu hai un piccolo debito lo devi per forza sanare. Quando tu hai un grande debito ti vogliono tutti vivo. E quindi più grande il debito, più tutti vogliono che tu continui a vivere, perché sperano prima o poi di recuperare qualche soldo. Quindi il messaggio importante da dare dalla radio della Confindustria è questo qui. Cosa? Indebitatevi. Fate debiti altissimi. Perché così, perché sai, uno ha debito di quando... sempre più vivi. Sì, ma esatto, perché se tu hai un debito di quanto? Di 8.000 euro, dice cazzo, beh, 8.000 euro puoi pagarli, ma se tu hai un debito di 90.000 euro, di 200.000 euro... Ma qui si tratta di milioni, di euro. Ma ottimo, meglio ancora, se no? Scusa, Vittorio. Vittorio? Beppe sta facendo... Vabbè, ho capito, amico. Facendo l'intervista, Beppe, con Barbara D'Urso. Ho capito, quando finisce sto cazzo di Barbara D'Urso? quindi è stata mezz'ora. E vi presento subito Vittorio Sgarbi. Ciao Vittorio. Eccolo. Prima, per esempio, mentre voi eravate collegati con me, parlavo con la Zanzara. Mi sembrava non meno importante la vostra trasmissione, palco, ma in generale, quando uno, cominciai con la D'Urso, sta fermo per qualche mezz'ora ad aspettare di essere collegato, mi pare onesto che usi il telefono. No. Era già previsto sto cazzo di Barbara D'Urso o no? No, io non lo sapevo, io sono arrivato qua. Ah, non lo sapevi? Vabbè, d'accordo, che devo fare? Vabbè, dai, ciao. Cioè, poi uno dice che può morire di crepacuore, te credo, cioè, e parla del Giotto, e poi il collegamento con noi, e poi Barbara D'Urso, nel frattempo ti chiamano altri 400, e dai, le 4 di mattina a mangiare gli spaghetti. Ah, guardate, l'unica cosa che posso escludere è la cocaina, perché molti dicono la cocaina. Ora, io da, come dire, narratore sgarbiano, delle gesta sgarbiane, se vogliamo anche biografo, non ufficioso e nemmeno ufficiale, e la realtà è questa, cioè che non c'è un milligrammo di cocaina mai. Altre pasticche sì. Qualche pillolina blu sì, è vero, sì, quello sì. Però vabbè ragazzi, oh, che devi fare, cioè, oltre 60 anni uno qualche pillolina blu se la può permettere o no? Sgarbi, non pagare le tasse, che noi non ti paghiamo il tuo cazzo di vitalizio. Ah, Sgarbi non vuole pagare le tasse. Allora, la prossima volta, quando gli viene un criccone al cuore, come gli è già successo, che si presenta a pronto soccorso rantolante, e quello del pronto soccorso dovrebbe andare a vedere sul video Sgarbi se ha pagato le tasse o no. Se ha pagato le tasse, benissimo. Interveniamo pure col defibrillatore. Ah, non ha pagato la tasse, non è biffata la casella pagato tasse? Sgarbi, purtroppo lei non può essere salvato e quindi non può fare le sue dirette via WhatsApp dal letto di ospedale, quindi lei deve crepare. Perché? Perché non vuole pagare le tasse. Molto molto molto bene. A Crociani devi stare molto mansueto. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo. Garozzo è c'è. Stoccata, la conferma la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Siete liberi di credere in quello che volete, in Allah, in Gesù, in Harry Potter, nel Signore degli Anelli, nei draghi, in quello che volete. Basta che non ci rompete i coglioni, avete capito? I coglioni! Allora, però, sulla tesi di Adinolfi, che dopo avremo qui ai nostri microfoni, io direi di partire subito con Antonella da Roma, perché è subito una testimonianza femminile, forte, su questo tema della dominazione. Cioè, Adinolfi da dove è partito? È partito dalla signora Ciccone, da Madonna, che ha detto: io faccio una pompa, faccio una fellazio, chiamatela come volete, tanto è uguale, non c'è un termine più volgare dell'altro. Il termine più popolare bisogna usare, quello che capiscono tutti, non la fellazio. Cioè, bisognerebbe chiedere alla gente in giro se sa che cos'è la fellazio. Si chiama pompino, è la cosa più semplice del mondo da dire. Non c'è nulla da specificare, non c'è nulla da trasformare. Allora, ha detto, lo farei a tutti quelli che votano per Hillary Clinton, lo faccio molto bene, lentamente, guardando negli occhi, la persona, cioè l'uomo, e poi ha detto anche che ingoia tutto. Allora, Antonella da Roma, subito, vai. Antonella. Pronto? Dimmi, ciao, Antonella. Rosani, buonasera. Tu ti senti dominata? Assolutamente no, anzi, proprio tutto il contrario. Cioè, io penso che sia veramente un atto in cui io mi sento molto potente in quel momento nei confronti dell'uomo. Ma certo, assolutamente. Assolutamente. Penso che Rinolfi proprio non abbia idea di cosa stia parlando, e forse ha avuto donne che non hanno veramente idea di come si faccia un pompino, che è un'arte, diciamolo. Sì, e io sì, da donna voglio vivere pienamente la mia sessualità, e penso che sia veramente una cosa importante nella sessualità della coppia. Però Antonella, quindi, ecco, io direi di invertire addirittura la questione, no? Cioè la dominazione in realtà è della donna, che in quel momento, donna, che in quel momento domina totalmente l'uomo. Esatto, cioè se te lo sai fare, lo fai... Cioè, è un'arte il pompino, sai fare per bene. L'uomo in quel momento, cioè, ne è succube. Totalmente. Ad Inolfi, aggiornati. No, voglio dire anche un'altra cosa di Inolfi, che se lo fa fare, se lo faccia fare anche col massaggio prostatico, che è assolutamente il top, e ti manda totalmente l'uomo. Te avrei provato, no, Cruciani, questa cosa? Cara Antonella, siamo uomini di mondo, come dire, no? Vero, ecco, gioia. Se pensa che il mio ex fidanzato non ha voluto, io, infatti, vabbè, poi... Ma questo l'hai scartato, infatti, ex. Ovviamente, infatti, ex. Cosa si poteva fare? Cioè, io ti voglio portare in paradiso e te non ti vuoi. E tu lo rifiuti, ma di che stiamo parlando? Cioè, poi voglio dire, insomma... Capito? No, vabbè, questa anche tu adesso ci metti la giunta del massaggio prostatico, certo, no? Che certo, è un'altra cosa, vabbè. Il culo, però vabbè, ma sì, questo l'abbiamo capito. Sì. Ci siamo capiti. Però, cara Antonella, adesso no, anche qui è vero, tu hai fatto bene a specificare, perché molte persone dici che cos'è il massaggio prostatico. Però tu invece, in maniera nuda e cruda, hai detto quella roba lì. Però adesso, al di là proprio della, come dire, del dettaglio, no? Sì. Cioè, tu hai detto una cosa chiara, cioè c'è la dominazione della donna, dunque non è una forma di sottomissione, come sostiene il professore Di Nolfi. Assolutamente no, assolutamente no. Cioè, è chiaro che la donna lo deve voler fare, gli deve piacere, però una volta che stai tanto lì... per essere chiari, tu lei lo fai anche alla prima botta, cioè senza conoscere bene la persona, cioè no. Vabbè, cioè, questo aprire brutto, le gambe è una roba e il pompino è un'altra, questo è brutto, l'atto più intimo. Ah, addirittura, vedi, addirittura per tu sei di questa per teoria. Per me è stato il regalo assoluto che cioè io tu lo fai dopo, addirittura dopo. Sì. Cioè, siamo con uno che conosci subito, puoi anche scoparci. Quello lo fai anche dopo mezz'ora che conosci una persona, lo puoi anche ora fare. Ora non esageriamo, Cruciani. Vabbè, comunque un'ora, due ore, tre ore, la sera stessa. Non ho calcolato, insomma, può essere, se mi piglia bene. E succede, però quello dici no. No, quello no, mi deve proprio piacere. Questa è curiosa, questa cosa, questa è brutta. Come trovi? Cosa. Questa perché è brutta. Brutta. Sai, per gli uomini chiaramente uno si aspetta un'altra cosa, no? Si aspetta subito così, piuttosto. Vabbè, ma non è che mi deve... Cioè, vabbè, ma comunque va bene pure quello, perché è importante avere sottolineato questa cosa qua. Non c'è nessuna forma di sottomissione femminile. No, Adinolfi, ma mente, ti racconta una cazzata. Ecco, ma tu faresti sesso col professore Adinolfi, per esempio? No. Mai? No, non c'è una cifra, no. No, impossibile, dici? No. Impossibile. No. Vabbè, Antonella, ciao. Io credo molto negativo. Beh sì, io vedo molto negativo, perché quel coglione ancora non so che cosa sta facendo. Qui c'era una telefonata top su cui Parenzo si poteva misurare, ma Antonella la possiamo richiamare quando si presenterà il Parenzone, naturalmente. Fabrizio Teramo, vai. Sì, buonasera Cruciani, sì, piacere sì di conoscerla. Beh no, veramente non ci conosciamo, ci sentiamo per telefono, comunque va bene. Esatto. Dai, Fabrizio, dimmi. No, io sono dell'opinione che Adinolfi abbia in parte ragione, nel senso che io personalmente, le parlo di mia esperienza personale, a me piaceva. Poi da quando io mi sono sposato, sia perché sono molto cristiano, penso che sia comunque un atto... Non è molto cristiano, perché comunque effettivamente è un dominio dell'uomo questa donna, non il contrario, come diceva. No, Fabrizio, stiamo calmi, un momento, tu stai dicendo una cosa assolutamente fuori dal mondo, cioè stai dicendo, siccome sei molto cristiano, una volta prima lo praticavi, poi una volta che ti sei sposato no, ma che vuol dire? No. Ma quale sottomissione? Ma sottomissione di cosa? Non ho capito. No, sottomissione, mia moglie comunque a volte vuole farlo, sono io che non voglio, perché secondo me... Cioè tu sei nella situazione in cui tua moglie vuole farlo e tu rifiuti? Esatto, esatto. Cioè ragazzi, ma questo qua, ma di che vogliamo fare con questo? Allarghiamo le braccia, cioè tua moglie vuole farti un pompino e tu rifiuti? Sì, perché secondo me posso provare piacere anche diversamente, con altre situazioni. Ma non ho capito qual è il problema in questa roba qua, spiegami. Perché secondo me vedere in quell'atto sessuale non è una cosa che a me non piace. A me non piace. Ma perché non ti piace vederla che fa quell'atto sessuale? Sei praticamente adinolfiano in questo, tu. No, non voglio confondermi con certe persone. Non ti vuoi confondere con certe persone. No. È così, è la realtà. Cioè, vedere tua moglie che ti fa un pompino lo reputi una cosa sbagliata, un errore. Da che punto di vista? Cristiano? Dal punto di vista di che cosa? Non c'è scritto nulla nelle cristiano, scritture. No, a parte cristiano, perché comunque lo penso in questo modo qua, nel senso, però non mi piace. È una cosa che mi è capitata negli ultimi anni. Fermo lì. Allora, caro David, buongiorno, buonasera, caro David. Buonasera, qui è sera. Sì, buongiorno, Milano. No, è sera, sì. Tra Capri, non c'è il fuso orario tra Capri e Milano, non c'è il fuso orario. Ancora no, potrebbe esserci. Cioè, sono due mondi diversi. Al terzo vado io, grazie. Sì, dove? Dov'è che vai? Terzo piano. Terzo piano, sì. Cioè, no, sì, ma aspetta, tu potevi chiamare una volta arrivato nel coso, una volta arrivato in stanza. Ma per nulla. Ma ho capito, ma sei in ascensore, magari adesso si chiude la comunicazione e si sente a cazzo, scusami. No, sì, infatti è quello che sta succedendo puntualmente. Mi senti? No, e infatti si è persa la comunicazione. Proprio un coglione. Cioè, quando uno dice un coglione, dice vabbè, un coglione. Sì, un coglione. Parenzo, sparati! No, vabbè, adesso sparati, no, esagerato. Fabrizio, però il tuo caso è da esaminare, cioè è da analizzare molto, molto seriamente, perché allora, uno... Non ritengo di essere anormale. No, sei anormale, te lo dico io, sei anormale, perché uno che dice... mia moglie vuole farmi un pompino e io rifiuto. No, che lo vuole fare te, avrebbe voglia, avrebbe voglia. Esatto, avrebbe voglia. E tu rifiuti, e tu dici: sì. No, non voglio farlo perché sono cristiano, perché non mi va di vederla in quella situazione. Non lo so, esatto. Per quell'altro motivo, non voglio indagare oltre, ma mi sembra abbastanza chiaro. Sì. Magari non ti sai trattenere. Cioè, tu, per esempio, pratichi cunnilingus con tua moglie? A lei mi piace farlo, sì, a lei mi piace farlo. Vabbè, ma allora perché uno non deve fare pari e patta? Scusa, fate pari e patta, pareggiate, uno pari e via. Non ti voglio convincere, ma la vuoi passare tua moglie? Dov'è? No, sono in viaggio per lavoro, sto tornando a casa, non c'è. Non c'è, ma poi non, magari ha voglia di collegarsi, no? No, non riesce. Figuriamoci. Aspetta, fermo lì, che devo farti analizzare bene da Parenzo quando torna, aspetta. Siamo al top! Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Salutate David e Beppe. Chiamate il telefono azzurro, caro Parenzo, chiamate il telefono azzurro. Sì, queste case, sì, ragazzi. Allora, forse non te ne sei accorto, ma il professore Adinolfi, che fra poco chiameremo, Parenzo, ha aperto una discussione che è chiaramente una cataratta, no? Una cataratta. Ma cosa? Riguarda sull'occupazione, sul Jobs Act, sul referendum, sul beh, lavoro. In parte sì, in parte sì. Sul lavoro? Sì, sui lavoretti, sì, sui lavoretti. Beh, questo è interessante, perché effettivamente lo diceva anche il ministro Poletti, sono un sacco di lavori... Di lavori anche nuovi che sono... Sì, soprattutto ha parlato di Blow Job Act. Scusami, non ho capito. Di Blow Job Act ha parlato. Non credo sia quello a cui si riferiva sì. poco fa... Il ministro Poletti, sì, no, non è non quello. Non mi risulta. No, non cioè, mi risulta. No, per carità, poi dopo... Può essere anche, può darsi no, che... No, guarda, ma non credo, non credo, non credo. No, però no. Ha parlato oggi e ha detto... Sì, ha parlato. Signora Adinolfi. Lo ha fatto a borse chiuse. Assolutamente, sì, no, si erano aperte, però non ne hanno risentito. Ha detto che in realtà la frase è partito dalla frase di Madonna e ha detto in sostanza che la fellazio, chiamiamola così perché ti aggrada di più, perché dire pompino ti dà un po' fastidio, è un atto di sottomissione della donna all'uomo, dunque è da respingere, un atto di sottomissione. E noi adesso dovremmo imbastire un dibattito, una discussione assolutamente, su questo punto, tu dici. Mi pare abbastanza chiaro, ma è andato via Fabrizio, non ho capito. Beh, anche sì, perché no? No, per esempio, sì. Ha chiamato prima un ascoltatore. Mi sono perso qualcosa, forse stanno parlando di deformazione. Di no, non ti sei perso nulla. Non ti sei perso nulla. Il deficit di Juncker che manderà la lettera questo, all'Italia. Sai che comunque non l'avremmo fatto, no? No. Sai che comunque non l'avremmo fatto. Ci siamo concentrati su questa cosa. È venuto abbastanza naturale. Comunque, Massimiliano da Milano, vai, proseguiamo, vai. Sì, direttore, buonasera. No, direttore, un cazzo. Non direttorissimo, sono, non so, direttorissimo, direttorissimo sì, perché in senso figurato, allora, vero? Direttore. Ho capito. Vabbè, vai, però, Massimiliano, no. Dimmi, dai. Senta, no, innanzitutto questo. Io penso che Parenzo ci debba delle scuse a noi, popolo della zanzara, perché ogni volta lo si chiama o in ascensore o in bagno, non ci si tratta così, almeno tra amici. Insomma, sì, non è no, bello. Questa è ragione. Chiedo scusa, bene, non avevo ancora raggiunto la stanza e ho preferito non perdere nessun minuto della trasmissione. Sì, quindi... dovevi però, esserci di fronte... Dovevi, di fronte... Però, Fabrizio, quindi vabbè. Venendo invece alla questione, all'argomento del giorno. Sì, ma non è l'argomento del giorno qui. Beh, cioè... ne sta facendo una puntata intera. Quindi. Ma no, ma ho capito, ragazzi, se tutto è dominato dalla questione della fellazio di Madonna e delle cose. Però... Non è colpa mia. Le elezioni americane, non sono io che ho introdotto per una volta questo argomento. Non ho colpe davanti a questo. Dai. Non usi certi verbi che è meglio evitare. Detto questo, però, siccome io faccio parte di quel gruppo di maiali di CL, come li ha chiamati lei prima. Ce l'è uno di Comune Liberazione, ma un grande peccatore in realtà. Beh, che è una enorme. È interessante questa cosa, enorme, Parenzo, del grande peccatore. Grande... Però, secondo me, lei come dire, non ha centrato il punto. Il punto è che quello che ha detto Madonna è una balla. In che senso è balla? È che non tanto non lo farà mai. Vabbè, questo ma certo che non lo farà mai. Che no, vuol dire? Allora, non è che si può mettere a fare milioni di pompini. Che cosa vuol dire? Allora, essendo che poi è un'elettrice della Clinton, evidentemente deve vincere Trump, perché Trump invece è il re della verità. Questo è, mi sembra chiaro. Vabbè, Massimiliano, non ci serve a niente quello che hai detto. Fabrizio, allora, Fabrizio da Teramo, che abbiamo recuperato, caro Parenzo, è un signore. Gli vuoi raccontare, Fabrizio, la tua esperienza a Parenzo, che non era collegato prima? Ma che sta facendo, no, Parenzo? Sta respirando? Che sta facendo? No, io sono fermo. No, è Fabrizio. Fabrizio, che stai facendo? Non ho capito. Una sega? Che ti stai facendo? Io sto tornando a casa. Ah no, ma sento un rumore strano. Che c'è in macchina? Che succede? Il tergicristallo della macchina. Il tergicristallo della macchina. Che fa questo rumore? Portalo subito a mettere un po' di olio o qualcosa. Non è mia, la macchina dell'azienda, non è mia. Vabbè, ho capito che c'entra. Cioè... Comunque, vabbè, dimmi Fabrizio, vuoi racconta a Parenzo la tua esperienza. Cioè, tu sei uno di quelli che, mentre tua moglie vuole farti un pompino, tu invece dici no, a me non mi va. Cioè, questa è l'esperienza. No, io come ti dicevo, ho cambiato idea nel tempo. Nel senso che a me piaceva, adesso non piace più. Semplicemente questo discorso. Ho capito, ma perché non vedi bene tua moglie in quella situazione? Perché cosa? Questo mi hai detto prima. No, Parenzo lo deve sapere prima di risponderti, prima di fare un quadro della situazione. Ma è certo, senza fare un quadro della situazione, senza mettere un punto, non si può andare avanti. Vai, Fabrizio, allora. Agliaia con questi tergicristalli, è incredibile. Vai, Fabrizio. Ma che fa? Piove, che fa? Chiudili. Piove, vabbè, vabbè, sbattere, fai qualcosa, non voglio sentire sto rumore, dai, odioso. No, il discorso è questo, che io la penso in questo modo, ma è una cosa che da qualche anno con questo pensiero. Quando mia moglie vuole, non voglio io. Tutto lì. Ecco, Parenzo, io farei anche metterei un punto su questa cosa qua, no? Cioè, secondo te è normale una situazione del genere, no? Oppure siamo in presenza di una situazione di anormalità? Cioè, siamo in presenza di una situazione di una vicenda rara, di un personaggio da analizzare anche mentalmente, capito? O no? No, cioè tu vuoi che... No, provi... io non voglio fare, io voglio anche innanzitutto che tu dica se è normale che un signore racconti una cosa del genere. No, questo... ecco, ma questo è... Però ormai tu stai dimostrando in questi anni che tutto ciò che fuori da questa radio non è normale, sì, qui diventa normale. Quindi ormai mi sto quasi convincendo che vivere questi racconti in presa diretta, sì, sia normale. Cose che magari fino a qualche ora fa pensavo di no. Di no. In un mondo normale, diciamo... Perché Fabrizio... La tua moglie ascolta i problemi tra le proprie mura domestiche. Ma non sono non problemi. Chiama l'800240024 per raccontare di quel che fa con la propria moglie. Ecco, questo in genere è nel mondo nel questa quale è la premessa, io. Questa è la premessa, d'accordo. Ma questa, per carità, poi sbaglio io, ma nel mondo nel quale vivo io non funziona così. Non funziona così. Benissimo. Ci ho detto, analizziamo nel merito la questione. Il caso di Fabrizio, come sì, direbbe Mario Capanna. Entriamo nel merito in medias res, come sì, direbbe Mario Capanna. Questo radioascoltatore pone all'attenzione, speriamo che la moglie sia anche lei collegata con l'emissione radiofonica, pone un problema che avviene tra le sue quattro mura domestiche. Io direi sì, quattro sì, tristi mura domestiche a questo punto. Molto tristi. Mura domestiche che veramente piangono per la tristezza. Beh, sì, che devono sono d'accordo, sono raccontare. D'accordo, sono d'accordo. Il signore pone un problema che lui si è sostanzialmente stufato, mi pare di capire, no? Sì, sì. Questo di una pratica sessuale chiamasi fellazio, sì. Benissimo. E pensa di risolvere questo suo problema chiamando l'800240024 alla radio della Confindustria. Anche questo segnalo essere una piccolissima anomalia. Basterebbe andare da un sessuologo barra andrologo con la adorabile moglie e risolvere con lui illico acqua immediato il problema. Sì, ecco, sì. Ci ho detto, non essendo io medico curante, né tantomeno il dottor professor Cruciani, anche se dottore dell'amore è considerato Cruciani, quindi va benissimo, sì, forse tu sei la persona più atta a dare dei consigli amorosi allo sventurato no, marito. Guarda, c'è una persona che di cui non posso fare nome che mi manda un messaggio solidarietà alla moglie di Fabrizio, e non posso fare nome purtroppo, però è così. Cioè, caro Fabrizio, solidarietà a tua moglie che vuole farti un pompino e tu lo rifiuti perché sei cristiano, hai detto, perché non ti piace vedere tua moglie. Che cos'è che ti dà fastidio della figura di tua moglie, dell'immagine di tua moglie attaccata al tuo pisello? Ecco, questo io non capisco, cioè, tanto per essere chiari, insomma, tanto per non girarci troppo intorno, qual è la cosa che dà fastidio? Spiegami dal punto di vista cristiano, dal punto di vista... No, è il discorso cristiano, cioè la sottomissione, la vedi sottomessa? Sì, mi piacciono più altre pratiche, tutto lì. No, ma perché la vedi sottomessa? Sì, in quella posizione là non mi piace, semplicemente questo. Perché sei cristiano, hai detto? Cristiano, ma cristiano nel senso, diciamo, sì, ho dei valori, sicuramente perché ho dei valori... Ma l'hai detto prima. Sì, il fatto è che sei è uno dei valori che ho, diciamo, però non è solo che motivo. Sei, pastafariano, che sei? Vabbè, ciao no. Fabri, ciao, Antonio, provincia di Reggio Calabria, vai. Sì, ciao Cruciani, buonasera. Sì, dimmi, dai, forza. Ciao, senti, allora, solo io chiamo per un altro commento riguardo al calabrese che hai chiamato ieri, ma siccome Fabrizio mi è dato in là per fare subito un commento... No, Antonio, allora, qui non si fanno commenti, uno dice quello che pensa, non è che dice faccio un commento, qui c'è uno zagrebesco, dice faccio, voglio fare un commento. Beh, di cosa volevi parlare? Del calabrese che ha... No, allora, del calabrese, dai, non ne voglio parlare più. Volevo semplicemente dire la mia su Madonna, anzi sulla quella che ha detto Madonna. Antonio, dai, forza, su, vai al sodo, vai, poi forza, sforzati, dai. Il problema è che se il marito non si può fare il pompino dalla moglie, la moglie da qualche altra parte. Tu sei col viva voce, vero? No, l'ho tolto il viva voce. No, sei con l'auricolare, No, sono semplicemente in viaggio. Ho capito, amico mio, ti devi fermare, devi parlare in maniera normale, altrimenti ti sentiamo poco. Comunque, significa che la moglie lo fa da un'altra parte. No, io non voglio dire che la moglie lo fa da un'altra parte, voglio dire che è stata una mia esperienza, io ho conosciuto una donna, non la moglie del signore ovviamente, che il marito non si faceva fare i pompini. E allora? E lei aveva bisogno di sfogarsi da un'altra parte. Vabbè, amico mio, questi sono cazzi loro, non possiamo indagare, non possiamo fino arrivare al punto di indagare. No, Marco, provincia di Bergamo, dai, Marco. Marco! Buonasera Cruciani, buonasera. Dimmi Marco, dimmi. Allora io vorrei parlare delle due cose in merito alla situazione dei giorni scorsi della ragazza obesa che è stata discriminata. Sì. Ecco, io ho una piccola azienda e ho avuto il problema esattamente opposto. Che quando mi sono trovato ad assumere delle ragazze troppo belle, troppo carine, è stato il caos in azienda. E per questo motivo assumo solo ragazze, più sono brutte e più le assumo. Cioè tu hai cambiato, che tipo di azienda hai? Spiego brevemente, io sono il titolare dell'azienda, un'azienda prettamente metalmeccanica, di conseguenza Ho capito, ma non è che c'è bisogno di avere una bella presenza lì. Poi azienda metalmeccanica, anzi, al contrario, c'è bisogno pure di, non so, magari delle operaie, no? Cioè, hai bisogno di operaie, di operai maschi e femmine, no, allora, non piuttosto è in forza. Sul sesso, nel senso che essendo un settore prettamente maschile si privilegia. Ma ho capito, però non hai bisogno di avere una donna con bella presenza. No, però se capita a colloquio una donna, come è successo, una ragazza molto carina. Hai avuto problemi? Assunta. In che senso hai avuto problemi? Perché poi i ragazzi vanno quando la vedono alla macchinetta del caffè, l'occasione buona per andare a fare quattro chiacchiere, perché poi durante il giorno rendono molto meno, perché sono sempre lì a Parenzo, questo è un caso di razzismo al contrario, praticamente, no? Cioè, no, è una storia particolare anche questa, però evidentemente queste... La situazione sul posto di lavoro veniva turbata dalla bellezza. Ho capito, però qui addirittura sono discriminate quelle belle nell'azienda di Marco. Cioè, una bella non si può. Mi pare un problema molto marginale, diciamo. Rispetto alle discriminazioni delle signore oversize. Diciamo, ma non esiste nessuna discriminazione delle oversize. Discriminazione, evidentemente, ma è normale che se uno. Fra poco ci collegheremo con una persona che ha anche un certo peso dal punto di vista dei chili. Cioè, e non credo che sia stato discriminato a livello lavorativo. Non è che qualcuno ha detto sei troppo grasso per lavorare. Non penso che sia mai successo, fra poco glielo chiederemo. Marco, non ho capito, perché tu non assumi più belle praticamente? No, questa ragazza, che ovviamente non l'ho licenziata perché era comunque brava nel suo lavoro, l'ho spostata. Però hai deciso, l'hai spostata in un posto dove non veniva un po'. E poi adesso quando faccio richieste a agenzie interinali per ricerca personale, a parte la bravura, la referenza è brutta come la fame. Addirittura. Beh, ma non è che lo dici, non è che lo dici esplicitamente. No, ne parlo con loro, perché non lo scrivo ovviamente, però quando ho un rapporto diretto che vengono a trovarmi per vedere come vanno, io le voglio brutte. Se me le mandano belle, non beh, le magari anche grasse, no? Grasse, ma non importa, ovviamente che non abbiano patologie. Ma come fai, voglio dire, belle e brutte, come fai a decidere? Le vedo io, le seleziono. Vabbè, ho capito, ma belle e brutte, cioè, nel senso, tu dici, più bruttine sono, che ne so, una con gli occhiali spessi, però ci sono pure delle gran fighe con gli occhiali. No, cioè, come no, fai, capito, secondo il tuo gusto? Non capisco io. Penso che sia semplice distinguere una bella ragazza da una racchia, no? Comunque, se sono racchie è meglio. È meglio, e come? Va bene, Marco, ciao. Seconda cosa... Dimmi, veloce, vai. È una cosa, sulle Madonna, l'affermazione che ha fatto. Io credo che sia caduta un po' anche nel... In che cosa? Se dovesse partire dal marito di Hillary, penso che qualche problema l'avrebbe, no? Vabbè, è facile questo, dai. Ciao. Allora, siccome abbiamo Mario Dinolfi con noi, ciao Mario. Ciao, buonasera. Ciao. Allora, voglio subito partire da una cosa, Parenzo. Ma siccome nei giorni scorsi abbiamo parlato dei 140 kg e della ragazza dei 140 kg che secondo quello che ci ha raccontato era stata un po' discriminata sul lavoro, secondo me invece non c'era assolutamente nulla, voglio capire innanzitutto oggi quanto pesi e secondo se sei stato mai discriminato per motivi, no, a livello di ricerca di lavoro, non che ti hanno detto ciccione, quello lo so che ti insultano spessissimo. No, nel lavoro mai, però mi faccio anche un lavoro un po' particolare, anzi forse la rotondità ha aiutato a rendermi anche riconoscibile per certi versi. Ma è stato un tratto caratteristico, però non è per tutti così, per essere obesi può essere un problema in alcuni contesti lavorativi. Sì, d'accordo, però non è che se un ristoratore nel vuole... Nel mio caso non è mai accaduto, insomma, questo evidentemente, però esistono mestieri in cui è più difficile, in particolare per una ragazza obesa, essere assunta. Vabbè, d'accordo, però uno non è che può pretendere di fare, che ne so, cioè la modella, no, ovviamente, anche se ci sono i casi di modelle curvi, ma nemmeno la donna. Assicurate che non può neanche fare molto spesso la cameriera o la commessa, perché. Ma di quello si parlava, di una cameriera. Di una cameriera che. Preferisce... Non sapevo che. No, questa qua è effettivamente una difficoltà in più che hanno. Sì, d'accordo, però. Non credo che l'obesità sia un problema nel trovare lavoro. Magari mi sbaglio, cioè nel senso non è che ci sono. Dipende dai lavori. Tutti i lavori esposti al pubblico tendono ad avere un problema nell'assumere obesità. Questa è una questione. Quanto pesi adesso, Mario? Un po' più di 150 kg. Allora, cioè, non sei diminuito manco per niente, allora? Sei ingrassato? No, adesso sono arrivato a 170 in vita mia, quindi insomma, ah, è arrivato a 100... sto veleggio in condizioni medie. Cioè non stai più facendo di dieta? Sono, come dire, nella dieta di mantenimento. Mantenimento di 150, lo so, cioè, esatto. Mantenimento di 150. Ma vuoi mantenere la linea a 150? Vabbè, amico mio, che te esatto. Devo fare? Ma non è facile, capisco, per carità. Senti, io però, adesso parleremo anche della questione dell'aborto, là, di quello che sta succedendo a Catania, eccetera. Però come ti è venuto in mente di dire che, prendendo spunto dalla vicenda di Madonna, il pompino, la fellazio, chiamalo come ti pare, da noi lo puoi chiamare come vuoi, è una roba di sottomissione? Perché qui abbiamo alcune persone che la pensano come te, anche c'è uno collegato adesso, Antonio, che dice la fellazio è un atto di sottomissione, un altro pure ci ha detto questo, e altri invece che ci hanno detto no, ma è chiaramente no, cioè la donna, delle donne che ci hanno chiamato, ci hanno detto io in quel momento domino l'uomo. Guarda, non l'ho detto io, il problema è che oggi ho pubblicato sulla Croce un articolo di una donna, tanto che è una bella donna, si chiama Lucia Scozzoli, che ha scritto una pagina intorno a questa tematica. Proprio sul come si chiama questa esperta? Lucia Scozzoli, che è una ragazza cattolicissima, diciamo così, che ha però detto? Ha affrontato questo tema e ha detto con una certa intelligenza che alle donne non piace. Ho capito, ma come le donne non piace? Alle donne non piace. Ma non è vero! Questo è un elemento. Ma ho capito. Ho preso atto di questa. Ti giuro che sono stato. Anche c'è stato dibattito in redazione su pubblicare un giornale si chiama La Croce. Non tratta abitualmente di queste. Di pompini. Però la ragazza è stata coraggiosa. Ha scritto un articolo molto intelligente. E secondo te è vero? Ma lascia perdere quello che scrive lei. Non piace. Cioè, io ti ho ragionato, in effetti mi ha fatto riflettere quell'articolo. La mia riflessione è: esistono, diciamo, punti di piacere nella bocca della donna? Io credo che con tutta franchezza questo sia un atto di piacere per l'uomo. Un atto di piacere per l'uomo, e nei tempi in cui ci rompete le scatole perché dobbiamo dire sindaca invece di sindaco, l'idea diventi un modello, diciamo così, per l'emancipazione femminile è quantomeno bizzarra, diciamo così. Ma no, a parte che stiamo parlando di una cosa già. No, Mario, scusa, stiamo parlando di una cosa, vuol dire che non è che è di oggi, cioè è una pratica che dai secoli. Certo, non è una pratica proprio, diciamo, si è diffusa molto, diciamo, nei contesti. Io non credo che i nostri nonni fossero abituati a avere questo tipo di pratica. Ma io penso di sì, cioè moderna, dei tempi moderni, dici te. Negli anni 50 i nostri nonni non se lo sognavano proprio. Cioè mia nonna non ha mai succhiato il cazzo di mio nonno. Adesso diciamola in maniera papale. Nonna, ma credo che tendenzialmente mia nonna non l'abbia fatto a mio nonno. Cioè, scusa, Parenzo, adesso i tuoi nonni, adesso io non lo so, non ho mai. Ma che lo dico io, lo dicono tutta la storia della sessologia. Cioè, se vai, ma no, ma io non. Perché esiste per tutti, vai su Google e dice guarda quando è che insomma la pratica si è diffusa in maniera così evidente e vedrai che ma questo qua non è necessariamente una cosa negativa, però Mario, cioè non è che questa è una cosa negativa, però non sto dando una sciazione. Allora, ma secondo te è negativo invece? Non ho capito. Ma secondo voi facciamoci una conversazione fra tre maschi, chiamate tre femmine e chiedete a tre femmine ma vi piace? Questo è il punto di domanda. Ma sì, ma la maggior parte, ma il 90% è piacere. Ho capito, a me è successo una sola volta in una vita sessuale abbastanza, diciamo, abbastanza vivace. Abbastanza vivace solo una volta, ma una volta, ma forse anche due volte forse su. Ma sì, ma se siamo a livelli. Ma negato. Se gli è piaciuto o meno parte, lo è stato un atto piuttosto di compiacimento. Ma scusa, Parenzo, questo è il dato su cui dovete ragionare. Ma ho capito. La discussione fra tre maschi è insufficiente da questo punto di vista. Dovete sentire, ma mi ha già chiamato una donna, mi hanno già chiamato ascoltatrici che mi hanno con dovizia di particolari anche descritto tutto il piacere di una pratica sessuale, per cui stai dicendo una cosa che non è vera e non è così. Alle donne piace, allora, alle donne piace. Senti, tantissimo. 100 donne, vedi, se 100 donne provano piacere. Ma non capisco perché tu lo associ alla sottomissione, questo che non capisco, perché lo associ alla sottomissione? Cioè è una cosa che non ha senso associarlo alla sottomissione. Questo articolo diceva. Ma no, ma io voglio sapere quello che pensi tu. Voglio sapere che pensi tu. Io non mi sono interrogato a lungo nella mia vita intorno a questo argomento, però quell'articolo mi ha spiegato un po' di cose. Il sesso è stato fatto, immaginato dalla natura, affinché l'incastro fosse fatto in maniera che io posso guardarti negli occhi, posso baciarti, posso parlare parole dolci, guarda che si può guardare, avere tenerezza. E questo elemento che la natura ha pensato così, forse non è stato pensato a caso. fatta da una donna, lo ripeto, è interessante. Guarda, è Mario, guarda, d'accordo, però ti posso assicurare che ci si può guardare negli occhi anche facendo un pompino, eh? Cioè, ci si guarda negli occhi lo stesso. Sì. Ma è quello che ha detto. Gli occhiali dopo una certa età, no, ma è quello che ha detto Madonna. È quello che ha detto Madonna. La frase di Madonna, forse non l'hai letta bene, ma era così. Cioè, io lo faccio guardando negli occhi. Lo so fare molto bene, lentamente, ingoio. Cioè, sono bravissima guardando negli occhi. Un grande atto di partecipazione, diciamo, di sesso in comune tra due persone. Aspetta un attimo, fermo lì. Che mondo sarebbe senza la zanzara? La zanzara. Allora, torniamo subito con Mario Adinolfi, che oggi ha fatto scoppiare, non dico un piccolo caso, però insomma su web se ne parla moltissimo, sulla rete, su internet. Sì, è chiaro che però intanto, mentre tu discuti di questi importantissimi temi sociali, sì, diciamo, di costume... Diciamo che sicuramente sono molto più popolari di qualsiasi altra cosa tu stai per pronunciare adesso, no, su questo non c'è dubbio. In questo momento è stato evacuato l'aeroporto di London City per un allarme chimico. Ottimo, bene, e allora? Ecco. La conseguenza per noi quale dovrebbe essere? Ci dovremmo occupare dell'evacuazione dell'aeroporto di Londra? No, non me ne frega un cazzo. Chi sta sono cazzi di chi è a Londra in questo momento e di chi deve andare a Londra. Non mi interessa mentre sto conducendo uno show radiofonico. Francamente non mi interessa. Cioè, se scoppia una bomba a Londra con 50 morti, ci interromperanno la trasmissione dicendo benissimo, speciale sulla morte a Londra di 50 persone. Benissimo, arrivederci, grazie, ci sentiamo domani. Allora, prima di tornare subito con Mario Adinolfi, parlavamo della donna sottomessa quando fa i pompini all'uomo, ma tutto parte dalla vicenda della signora Ciccone, cioè della signora Madonna, che ha detto, ripeto per l'ennesima volta, che sembra un argomento inventato dalla zanzara. No, è un argomento introdotto in piena campagna elettorale americana da una signora la quale polverizza in un secondo tutte le accuse maschiliste che sono state fatte nei confronti di Trump, di maschilismo, di sessismo, eccetera, dicendo, una delle icone del vippaio democratico che vota per la Clinton, dicendo che voi votate la Clinton, faccio un pompino a tutti, sono bravissima, lo faccio lentamente, eccetera eccetera, tutto quello che stiamo dicendo da ieri. Questo è successo. Da qui Adinolfi ha detto una cosa oggi, non credo che sia dalla parte della signora Clinton, Adinolfi non credo che sia dalla parte della signora Madonna, ha detto, però ha fatto una riflessione in più, ha detto, beh, la fellazio è un atto di sottomissione della donna, e ti posso assicurare, caro Mario, che non è così. Ci sono una marea di persone che mi stanno scrivendo in questo momento, amiche, contro amiche. Sentiamo le donne, insomma. Ma Roberta da Roma, ti faccio sentire Roberta. Roberta da Roma, per esempio, ha chiamato. Roberta, vai. Sì, buonasera. Ciao Roberta, buonasera. Dimmi. Ciao caro. Allora, io volevo precisare che quando precisare è una roba da ministri. No, precisare, fammi parlare. Perché fammi il signore che dice che... Sì. Vabbè, Mario, che dice che praticamente una donna è sottomessa quando fa un pompino, non capisce un cazzo. Perché una donna, almeno io quando fa un pompino, io faccio un pompino, ok? Mi sento una troia, ed è quello che l'uomo vuole. Cioè, esprimere... Appunto, quello che l'uomo vuole. Certo, certo. Quello che l'uomo vuole. Certo, certamente. No, però quando tu dici... sì, ma tramite un pompino... Però Roberta... La prova, provata. Però Roberta, da questo punto di vista, mi stai andando dalla parte di Adinolfi. Cioè, tu come dire, se ti senti sottomessa? Non sono sottomessa. Esprimo il mio essere donna attraverso il pompino perché mi sento una troia, ma non perché sono sottomessa, anzi io domino. Domino, no, ma domino. Infatti, brava Roberta. Allora, faccio quello che l'uomo vuole e io domino. Non certo, al tempo stesso l'uomo diventa vittima, al tempo stesso l'uomo diventa vittima del mio pompino. Ah, sì, come no. Va bello, ma sì. Ma è così, Mario, arrenditi. Grazie, grazie Roberta, grazie, grazie. Ciao. Allora, però, la questione è molto semplice. Tutto questo mi fa pensare, Mario, che tu non pratichi. L'uomo è vittima. Che tu non pratichi. Questo è divertentissimo. Beh, sì, l'uomo in quel caso la mia vita sessuale a te, ma comunque posso assicurare che, diciamo, deriva anche da una lunga esperienza di vita, insomma, quarto di secolo. D'accordo. Quindi su questo fidati, ci possiamo confrontare con non ci mancherebbe altro. Che a noi ci piaccia è fuori dalla discussione che stiamo compiendo. Sì. Cioè, ma tu con tua moglie lo pratichi o no? Con tua moglie lo pratichi o no? O pensi che lei sia sottomessa? Ora ripeto, la mia vita sessuale se uno affronta questo argomento affronta fino in fondo. Fidati, questo qui ovviamente è off limits. Il dato che ci dice la signora è lo faccio perché è quello che vuole l'uomo, Vabbè, adesso tu hai preso solo una parte, dai, hai preso solo una parte. Hai preso solo una parte. Ho preso la parte dove che ti conviene di più. Hai preso la parte che ti conviene di più. Ha detto quello che è, cioè, vuol dire mi sento troia e in questo esprimere un elemento di liberazione della donna è evidentemente sì, certo, in contraddizione, è una frase che non esiste, mi sono comando perché mi sento troia, e dai, beh certo perché si sente, perché è contraddizione certo, logica evidente, infatti viene subito contraddetta dal dire faccio quello che vuole l'uomo, che vuole l'uomo. Ma scusa, allora il cunnilingus dovrebbe essere lo stesso, il cunnilingus dovrebbe essere lo stesso, è finalizzato, ripeto, è il problema che stiamo volendo oggi è cosa ha detto Madonna. La frase di Madonna è la frase di sottomissione all'universo femminile. Questa è una cosa tristissima della dimensione della discussione. Sottomissione, certo, lei lo dice. Colui che trae piacere da questo atto è l'uomo, d'accordo? La famosa tema dell'ingoglio. Perché dice l'ingoglio? Perché sa che l'ingoglio fa schifo. Quindi farlo è un atto, chiamiamolo. Ma perché fa schifo? Scusa, non ho capito. Perché, ma perché fa schifo? Perché non ho capito. Sottolinea quel passaggio. Perché secondo ma me lo sottolinea perché evidentemente è una cosa che piace all'uomo, piace anche a moltissime donne. Ma, non, appunto, ma perché sei fissato con questa cosa? Piace anche a moltissime donne, non è così. Ma non è così. Ma certo, assolutamente. Adesso Roberta non è più in collegamento, se no io lo chiederei. Come atto eroico, insomma, no? Ma sì, ma guarda, ti assicuro che così non conosci il mondo, per questo pigli lo 0,2%. Ma certo che lo conosco da questo punto di vista, dai. Stefania da Vicenza. Stefania da Vicenza, vai Stefania, vai, dimmi. Sono qui, sarò veloce come piace a te. Allora, in merito no, non devi essere veloce, puoi stare anche tranquilla. Niente. Che vuoi dire, no, ad Adinolfi? Allora, che volevo dire, in merito a questi radioascoltatori timorati da Dio, di Dio. No, Mario non è un radioascoltatore, anche se lui lo no, è l'altro anche di prima, l'altro, l'altro. Dimmi. Ma per te, lascia perdere adesso, ma per te è una sottomissione o no? Assolutamente no, perché io vedo che nel mio lavoro clinico, faccio la psicologa, moltissimi di questi signori vengono da me e mi dicono io amo molto mia moglie, però questo non glielo faccio fare perché l'affellaccio me la faccia fare da qualcun altro. E questo non è un tradimento, cioè aggiungo questo, quindi sono estremamente inorridita. Ma questo è il racconto che ti fanno alcune persone che dicono la mia moglie, alcune persone, sì, però tu in particolare, Stefania. Le mogli non lo fanno, pensa oggi, pensa ai nonni. Ma i nonni lo fanno, mi hanno detto che è una... Ma i nonni, ma non è vero. Parenzo, ti sei mai interrogato sui tuoi nonni? Ti sei mai posto l'immagine dei tuoi nonni tu di fronte a queste cose? No, francamente trovo difficoltà, come dire. Trovi difficoltà, scusa? A portare la mia testimonianza in questo di questa discussione, perché no, perché cosa? Non saprei cosa dire, francamente, sono un po' basito. Cosa? Bacchettone, basito. Ma da che cosa sei basito? Vedi? Non ho capito. Ma da che cosa sei basito? Ma non c'è nessuna discussione, c'è una discussione su una cosa che ha detto. Ma non sai che contributo dare. Ma no, come te, di quello che pensi sulla questione della sottomissione. Avrai praticato questa cosa? È una sottomissione della donna o no, secondo te? Ma è molto semplice. Io non parlo di cose. Ma no, ma anche non devi parlare. Come sai? Vabbè, quindi la domanda. Non vuole parlare, stai zitto allora. Di questa cosa qui. Non vuoi parlare, va bene, d'accordo, non vuoi parlare. Posso parlarne quando sono al bar, in una caserma. Vabbè, va bene, d'accordo, d'accordo. Ma va bene, parla. Ma puoi dire il cazzo che ti pare, anche stare zitto, Stefano. Volevo capire non se volevi intervenire. Vabbè, benissimo, ma non vuoi intervenire? Cioè. Ma se non vuoi intervenire, non intervenire, chi se ne frega? Allora, chi è che sta secondo dormendo? Me non c'è nessuna sottomissione in questo atto. Oh. E qui siamo un po' veramente nel clima della birra, è giusto, perché è una radio. Ma chi è che sta dormendo? Chi è che sta dormendo? No. Se sento un rumore strano, chi è? Adinolfi che respira? Chi è? Cioè, cioè sembra Adinolfi che respira. Che cazzo è, Mario? Che stai facendo? Stai a dormire? Sembra... C'hai un respiro strano. C'è un respiro drammatico quasi. È un respiro incredibile. Però Stefano ha detto una cosa molto importante. È un argomento alla portata. Ha detto è un argomento alla portata di tutti, di cui tutti parlano e di cui tutti possono parlare. E questa era una risposta a Parenzo, ma chi se ne frega. Ma sì, ma Parenzo non le vuole parlare. Ma chi se ne mettiamo? Ce ne faremo una ragione. Che c'è in questa. Ma sì, ma è una cosa normale. Sentite questo rumore di fondo. Il respiro di Adinolfi mi impressiona questa cosa qua, ha fatto fare una visita, Maria. Sa che sta succedendo, ci sarà. Ma non lo sai, è pazzesca questa cosa. Allora, un altro mi scrive, un'altra mia amica, non credo che esista un'altra persona in Italia capace di parlare di pompini per due ore con la stessa passione e dedizione come se si trattasse di un tema di alta economia. Di a Mario che è un coglione, altra donna molto introdotta nel mondo dell'economia italiana, però era un coglione, credo, benevolo, non offensivo, affettuoso caro Mario. Allora Stefania, sei contro Adinolfi tu, immagino, no? Certo, direi proprio. Io sono sempre molto rispettosa di qualsiasi idea altrui. Anche però... di Adinolfi, e in questo caso no, certo. Diciamo, non è un atto di sottomissione. Benissimo. Mario, quello che... ma non approvo. Quello che succede a Catania, invece, parlando di aborto, sì. sembra, come racconta il padre, che un medico a un certo punto non abbia praticato, non sia intervenuto per sopprimere un feto facendo morire una ragazza. Come la mettiamo? Questo è pazzesco. Anzi, criminale. Il ministro ha detto oggi, il ministro Lorenzini ha detto, dichiarazione ufficiale, che non c'entra niente l'obiezione di coscienza in questa vicenda. Beh, quello si è detto obiettore di coscienza, pare un medico. Fare una discussione sull'inchiesta che non è neanche cominciata è davvero difficile. Se mi vuoi chiedere cosa bisogna fare, chiedere, se c'è un feto in pericolo, che mette in pericolo di vita il corpo della donna, non lo dico io, dice persino Pio XII quasi 100 anni fa. Ovviamente, se c'è l'imminente pericolo di vita della donna, è legittima la soppressione del feto. Ah, meno male, ecco. È una cosa che... Però giustamente lui dice l'inchiesta ancora... Il magistero della Chiesa, non è che... Però insomma, sulla questione in sé, quello che è successo, non lo so. No, ma ti pare normale che esistano ancora... Beh, con te è inutile chiedertelo, che esistano medici obiettori. Per te dovrebbe essere tutti obiettori. Per la legge. E se voi dovrebbe essere tutti obiettori, perché un medico non uccide ma cura. E che ma una donna che vuole abortire, che deve fare in Italia? Secondo te che cosa dovrebbe fare? Scappare dall'Italia, andare via dall'Italia, una che deve abortire? Cioè tu preferiresti mettiamo che vuole ma d'accordo, far nascere il figlio e darlo a qualcun altro. E darlo in adozione. Benissimo, questa è la tua tesi folle, secondo me va bene. Però una che invece vuole abortire, e vuole abortire comunque, non è che glielo puoi impedire con le catene, non penso che deve andare in prigione, secondo te, una persona che abortisce. C'è la legge 194, quindi non è che ci posso fare niente. No, ma lascia perdere la 194, sto dicendo il caso in cui... non è se che io governassi il mondo e avessi lo scelto di sperare. Dovrebbe andare in prigione? In prigione? No, non penso, dovrebbe andare in prigione il medico che la... Cioè i medici abortisti sono degli assassini, secondo te, alla fine? Io sono convinto che un medico debba curare e non debba uccidere. E dunque, come li definisci quelli che praticano l'aborto? È dentro il giuramento di Ippocrate, ci sta questo. Ma come li definisci come li definisci quelli non, che... Non ti do il titolo che ma vuoi, non c'è nessun titolo, voglio capire... Insomma, quindi io un medico, ripeto, che... sono lieto di sapere che in Italia ci siano molti medici obiettori. Forse per me... No, però scusami, non diciamo minchiate. Raccomando ai medici di essere tutti obiettori. Un medico che pratica la 194 è un medico che applica la legge. Non mandiamo messaggi minchioni, perché altrimenti... Però la legge vale per tutti. Cioè, nella legge 194 c'è anche il diritto all'obiettore di coscienza. Appunto, io infatti mi la contesto. Non è che vale tutto, Purtroppo sì. Ma io infatti non la contesto l'obiettore di coscienza. Ci mancherebbe altro, ma il diritto... prevede l'applicazione della 194 e quindi anche l'ipotesi quando del medico abortito. Quando porterete un caso di una donna che in Italia non è riuscita ad abortire, avvieremo questo... No, ma questo... Ma questa, io però vorrei capire una cosa. In Italia ci sono stati 105.000 aborti l'anno scorso. Mi dovete portare un caso di una donna che non è... In alcuni casi si hanno difficoltà, in alcuni casi ci sono difficoltà. In alcuni casi ci sono difficoltà, bisogna andare da un ospedale all'altro, trovare il medico giusto, ci sono molti obiettori. Una storia c'è di questo genere. Sì. Già avevate fatto le pagine. Ma secondo te, secondo te... E anche una vicenda. Secondo te una donna... 105.000 aborti. Va bene, ho capito. Allora, nel tuo mondo ideale, in Italia, praticamente non si dovrebbe abortire. Dunque, una donna sarebbe preferibile che andasse all'estero. Cioè, quelle donne che oggi vogliono abortire in Italia dovrebbero andare all'estero. Dovrebbe partorire, non è che deve andare a abortire all'estero. Sì, ma non vuole farlo, non è che la puoi costringere, no? A avere un figlio, o sì? Ce la puoi costringere a forza. Se vuole andare all'estero, non gli posso togliere il passaporto, quindi questo... Cioè, che la vuoi sedare una donna che deve fare un figlio? La vuoi sedare? Non ho capito, che ci vuoi fare con la donna? Cioè, in Italia, governata da Adinolfi, la donna non abortisce. Ma come fa se uno vuole abortire per forza? Se capito, l'unica alternativa che ha nell'Italia governata da Adinolfi è andare all'estero, allora. Certo. Ho capito, cioè, nel tuo mondo ideale l'Italia sarebbe una zona aborto free, diciamo, come si direbbe, aborto free. Un paese aborto free, un paese pro life. E forse avremmo così dei dati di natalità non vergognosi. Vabbè, d'accordo, vabbè, quello... Terrificanti, perché ogni anno sparisce una città come Bologna e a voi non ve ne frega niente. No, a me nulla, non me ne frega niente, niente. Ciao Mario, è un problema decisivo. Ciao. La Zanzara. Some folks are born made to wave the flag. Who they Cruciani mi ha fatto risentire Fix Cencen, ma a capo ci piango dalla commozione, perché questa è cultura generale, come hai detto te. Ma va ritrovato che parlava con quell'italo francese improbabile, e questo l'ha dato le paste, anche se in tempi diversi, a Rocco Siffredi. Propongo una cosa, sempre per cultura generale, ritroviamo Gabriel Pontello, riportaci Gabriel Pontello, dov'è, che fa, a che pensa, lo voglio sapere in tutti i modi, ma è cresciuto Gabriel Pontello. Caro Cruciani, Gabriel Pontello, oltre a dire Ifix Chen Chen, pronunciava anche la fatidica frase, scatta il fluido erotico, e non era quando veniva, ma bensì quando vedeva una gran bella gnocca e voleva farsela. La guardava negli occhi e Ifix Chen Chen scatta il fluido erotico. Quante pippe, ragazzi, quante pippe! Parenzo, Ifix Chen Chen è veramente il top, il top. Sono gay e non sapete quanti etero mi sono fatto grazie a quei giornalini quando avevo 14-15 anni. Chiaramente della mia età, ci mancherebbe. Cruciani, io ho più di 40 anni, ma che è Ifix Chen Chen? Grave lacuna, David. Super sex me lo ricordo anch'io. Ifix Chen Chen e scatta il fluido erotico. Gabriel Pontello. Parenzo, aggiornati. Sono qui seduto in poltrona a guardarmi la mia ragazza che su Skype si fa toccare da una bellissima donna francese e dal suo ragazzo. E tutto quello che riesco a pensare è: meno male che non c'è il traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Questo era il respiro di Adinolfi. Cioè, ma tu ti rendi conto, David? Sì, cioè, il respiro di Adinolfi deve andare da un medico. Ma secondo me deve andare da un medico, ma o il respiro normale di una persona, magari, diciamo, di 150 kg, che... questo non lo so, ma non deve andare. Sì, ma per forza, dai. Ti assicuro che io sentivo un rumore strano, ma non mi è mai successo. Senti. Cioè, impressionante. Questo era il rumore, cioè sembra un animale, sai, di quegli animali, no, terribili dei film di fantascienza che sono lì in agguato. Vabbè, che dopo un po' di... il suo respiro. Ma adesso non lo sto insultando, non ti preoccupare. Il punto fondamentale è che sentivo durante il collegamento un rumore, cosa che non è mai successa. Abbiamo fatto sempre un sacco di collegamenti con la di Nolfi. C'era un enfisema polmonare, che ne so io. Io poi sono io quello cattivo. Ma non lo so. C'era un enfisema polmonare. Ma che ne so io. Allora, c'è una professoressa di Venezia, di un liceo veneziano molto importante, che si aiuto, chiama Marco Polo, un liceo, pare, dove si è andato anche il professor Cacciari e tanta gente. Sì, è famoso quel liceo classico. Sì, non so se è liceo classico, sì, docente di inglese, sì, probabilmente è liceo classico questo Marco Polo, docente di inglese, questa qua, si chiama Fiorenza Pontini. E in vari mesi la cosa è stata diventata di dominio pubblico da poco. Ha scritto sul suo profilo Facebook le seguenti frasi, caro Parenzo. E poi ho torto quando dico che bisogna eliminare anche i bambini dei musulmani, tanto sono tutti futuri delinquenti. 22 luglio 2016. Vi odio, maledetti, vi brucerei vivi. 13 luglio. Questa è una docente. Docente di inglese. Sempre commentando dei fatti di cronaca, i più svariati. Il 21 agosto chiama la presidente della Camera Boldrini schifosa puttana troia. 12 ore prima aveva scritto un altro salvataggio, ma non potevate lasciarli morire? Questa è sempre una docente di inglese. Docente di inglese. E ancora, sempre quest'estate, almeno morissero tutti, sempre rivolto ai musulmani. Allora, questa tizia si è resa irreperibile, ovviamente, nella giornata di oggi. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi a metterci in collegamento con... speriamo che almeno il preside della scuola l'abbia reperita, diciamo. Il preside della scuola, non so, forse ci ha parlato. La realtà è questa. Io adesso, per carità, non voglio dire niente, però credo che la preside, il ministro, chi ha i poteri per farlo, io credo che ci siano... tutti i presupposti per dare un bel calcio nel culo, diciamo, no? Tutti i presupposti. Per carità, io sono a favore della libertà di espressione. Sono beh, a favore. Qui non c'entra niente. No, ma sono a favore della libertà assurda. Però uno ha anche un ruolo, no? Cioè, se uno fa il docente di inglese, cioè deve insegnare. Qui noi facciamo la radio, possiamo dire quello che vogliamo, poi c'è il codice penale. E il docente di inglese in una scuola che scrive, ripeto, bisogna eliminare anche i bambini dei musulmani, cioè non è che dice che bisogna respingere i barconi, capito? Perché uno può dire vabbè, secondo me... No, per me è una gravità inaudita, inaudita. Ma cioè, va cacciata, che... pedata nel culo secondo te questa qua? Va, assolutamente, va sospesa dall'insegnamento, questo come primo provvedimento che il preside può attuare, cioè sospendere dall'insegnamento. E poi immagino, spero, che verranno mandati degli ispettori e che verrà eventualmente anche licenziato, non è che uno può licenziare così, però sicuramente sospesa dall'insegnamento e messa, se non altro, da altre mansioni, questo mi sembra doveroso. Immagino che il preside l'abbia fatto, non lo so, perché sennò... Ma è la libertà di parola, che cosa c'entra la libertà di parola? Non c'entra niente. Sì, signora Guazzeri? Sì, lei è la preside Marco Polo? Sì. Salve, buonasera. Qui la Zanzara, Cruciani, salve. Pronto? Sì, qua. Salve, buonasera. No, sento poco, mi scusi. Pronto? Pronto? Non si sente un cazzo. Allora, come dimenticare il mitologico Ferrone, Lennox Ferrone di ieri sera, caro Parenzo, eh? Come dimenticarlo? No, è meglio dimenticarlo invece. No, invece non vanno mai dimenticato. In un'aula di tribunale. Non vanno mai dimenticato. Che c'è? State riprovando? Si sente? Riproviamo, vai. Allora, eccoci qui, preside. Sì, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, io voglio capire, ho letto oggi di tutte queste frasi che ha scritto la signora Pontini sul suo profilo Facebook, no? Voi avete preso dei provvedimenti oppure non siete in grado di prendere provvedimenti? Ci ha parlato lei con la signora? Esatto, cioè noi non siamo in grado di prendere provvedimenti in quanto si tratta di provvedimenti superiori alle nostre competenze. Perché? Potete sospenderla però, la potete sospendere. Il dirigente scolastico può sospendere fino a un massimo di 10 giorni, quindi questo si tratta di un... si tratterebbe di un provvedimento molto limitato nel e perché tempo. Non l'ha fatto lei? Perché la tipologia della mancanza disciplinare della professoressa Pontini è molto grave e quindi no, perché... potrebbe addirittura rientrare nel penale. Sì, d'accordo, questo d'accordo, ma perché lei non l'ha sospesa subito allora? Perché non ho la competenza per farlo. Ma lei non fa il dirigente scolastico, scusi? No, ma allora il dirigente scolastico... Ah, lei dice segnala, più alto in grado, sì. Esatto, segnala, io ho portato immediatamente tutto l'incartamento. Ma lei, scusi, prego, non poteva... Sì. Buonasera, sono Parenzo. Intanto, ma grazie. Ma sono online, non ho capito. No, è Radio 24, è Radio 24, signora. Grazie intanto per questa testimonianza. Prego. Quindi, grazie. Allora, prima questione che volevo chiederle questa. Lei però ha il potere di spostarla, di allocarla in altero loco dentro quella scuola, no? No, no. No, cioè questa potrebbe tornare a insegnare domani mattina? Allora, in teoria sì, in realtà non sarà così, penso, perché... Cioè, in che senso? Non sarà così? Non sarà così perché probabilmente... Cioè, lei da preside, mi scusi, io non so come funzionano queste cose, pur avendo fatto le scuole tanti anni fa, il preside non può, sulla base di alcuni elementi... Non è sceriffo il preside, tutti parlano di preside e sceriffo e non è così, cioè... Ma ho capito, può sospendere però una persona o no? Allora, può avvisare una persona che ha commesso un illecito e convoca questa persona, deve dare un certo periodo di tempo, deve dare 10 giorni, 20 giorni, quello che lei è. Lei ci ha parlato al telefono? Con la persona, l'ho anche vista. Come si è giustificata? Cosa le ha detto? La persona in questo momento ha anche levato tutto, ha visto, no, da Facebook, non c'è più niente sul suo profilo. Sì, d'accordo, quello ci mancherebbe pure se lasciato. Forse è anche una cosa un po' codarda in realtà cancellare il profilo. Devo dire la verità. Cioè, ma che lei, ma lei guardi, mi sembra che la sta quasi giustificando. Scusi, no, io voglio distinguere da un lato cosa? Quello che è stato fatto, che è gravissimo, e mi voglio dissociare completamente da quanto ha affermato la professoressa Pontini. Ci mancherebbe pure che lei dica che bisogna ammazzare i bambini dei profughi, non lo so. Ma sì, figuriamoci, ma poi ed è completamente, voglio dire, all'opposto di quello che è la mia ideologia, il mio modo di pensare, il mio modo di fare didattica. Va bene, questo va bene. Poi invece quello dell'istituto. E dall'altro la persona, nel senso che... Ma che vuol dire la persona? La persona che mica bisogna sopprimerla. Dico, appunto, ma mi sembra quasi che voi vogliate... Cioè non è da condannare come persona, secondo lei? No, è da condannare quello che ha fatto, senz'altro. Ho capito, e si stanno occupando di questo gli organi competenti. Cioè, secondo lei c'è un'eccessiva... Con una tempestività, guardi... D'accordo, quasi, ma secondo lei viene... D'accordo, questo l'ho capito, ma secondo come lei... Come una zanzara velocissima. Lei la stanno massacrando, secondo lei? Immediatamente la stanno massacrando? Allora, stanno massacrando... Non lo so se la stanno massacrando. È che stanno massacrando anche la scuola, perché in realtà il liceo Marco Polo ha una tradizione democratica, antifascista, e di inclusione. Ma nessuno dice il contrario. Ecco. Sembra che siccome non la sospendiamo dal servizio, siamo anche noi schierati. Da parte di gente che dice dovete sospenderla, siete conniventi. Esatto, sì, perché noi ovviamente abbiamo un sito, abbiamo un'email e quindi mi arrivano addirittura. Però io credo che lei una sospensione la può fare. Una sospensione la possa fare. Cioè una cosa, lei non rientrerà. Il messaggio che noi dobbiamo chiudere adesso, il messaggio che voglio dare è questo. Tornerà a insegnare nella vostra scuola, sì o no? Io penso che la professoressa forse non tornerà più a insegnare nella sua scuola, però questo non lo posso dire per certezza. Ma lei potrebbe dire o io o lei, cioè o resto, se lei torna io me ne vado. Ma scusi, signora Preside, però non è che possiamo... Ma lei non può, perché dovrebbe andare via lei? Perché dice... Allora, innanzitutto io non posso andarmene da nessuna parte perché è l'ufficio scolastico è compatibile con la sua presenza o no dentro la scuola? La presenza della signora... come si chiama? Pontini. È compatibile o no? No, che non è compatibile. Non è compatibile con lei. Grazie, arrivederci. Prego, buonasera, arrivederci. Cruciani, la sua voce è meglio dei preliminari. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. Allora, non so se lo sai, Parenzo, ma nel nord-est dell'Italia c'è una grande invasione di cimici. Cimici nel senso di per spiare le persone? No, le cimici, quelle che vengono utilizzate dai servizi o dagli investigatori privati. Dalle barbe finte. Ma anche dagli investigatori privati per scoprire mariti che tradiscono le mogli, mogli che tradiscono i mariti, eccetera. No. Cimici animali, animaletti fastidiosi, animali, insetti micidiali, le cimici. Che dobbiamo fare, no? C'è un'invasione, avrebbe una grande preoccupazione, so che non te ne frega un cazzo. So che ti occupi del PIL, non del PILU, ma del PILU, ma del PIL. Importantissimo tema delle cimici. Molte persone hanno il problema in questo momento delle cimici, non hanno il problema del come sta andando il dibattito sul referendum costituzionale. No, si occupano di cimici. Ora devi sapere che gli animalisti. Io penso ad esempio che a casa del professor Zagrebensky non ci siano cimici. Ma invece sicuramente ci saranno andate anche là. No, perché è una persona pulita. Ma che cazzo c'entra? Non è che i cimici vanno solo dove c'è la sporcizia. Vanno dove c'è sporcizia. Casa cioè, tua, tu dici esempio, secondo me è pieno di cimici. Quello sì è vero, qualche cimice ogni tanto c'è. Fa capolino. Secondo te a casa di Mauro da Mantova ci sono le cimici? Ma casa è invasa. Solo cimici ci sono. Praticamente, anzi, le cimici lo hanno. L'altro giorno mi hanno segnalato cimici lo hanno preso il divano sul quale era seduto Mauro, e lo hanno portato fuori dalla casa. Cioè, proprio sai come cioè, tu dici che la casa di Mauro da Mantova è invasa dalle cimici. È una persona lorda sia dentro che fuori. Cioè, sia dentro l'anima è sporco. Cioè, lui ha le cimici anche nella sua anima. Addirittura? Sì, come una persona sporca, dai, sì, evidente. No, no, dai, non esagerare. Sì. Allora, però, gli animalisti fossero coerenti, dovrebbero proteggere anche le cimici. Ed effettivamente abbiamo scoperto che i pazzi esistono. I pazzi esistono. Questo lo sapevamo già dalla zanzara, che i pazzi esistevano, no? Però ci sono animalisti che vogliono assolutamente salvare pure le cimici. Perché uno di fronte all'invasione delle cimici cosa fa? Distrugge, no? Le stermina. Le massacra, le fa fuori, ma è una cosa normale. Cioè, le cimici, sono prima, se vedo una cimice la schiaccio, non è che no, la cimice, e invece no. Pronto? Sì, buonasera, sono De Canutti e chiamo da Mareto di Tomba. Amici della terra? Sì. Senta, io abito in una casa che è praticamente coperta da uno sciame di cimici cinesi. Io sono animalista convinto. Sono anche vegano, peraltro, e vorrei allontanare queste cimici da casa mia, però senza ammazzarle. Parla di quegli insetti verdi della sì. Trovo un insetto in casa col bicchiere e la cartolina, lo raccolgo e lo butto fuori. Sa qual è il problema? Che non posso andare lì col bicchiere e raccoglierli uno per uno, perché ce n'hanno, non lo so, migliaia. Francamente non saprei cosa consigliarle, se non mettere zanzarieri alle finestre. Ma mi prendono per pazzo perché non voglio ammazzarle. Loro dicono, ma bruciale, fa di tutto. No, mi viene la capriccio, guardi, a sentire queste cose. Sì, io apprezzo anzi la sua posizione di non violenza, perché sì, poverette, anche loro non è che abbiano colpa. Forse gli ultrasuoni. Pronto? Sì, buonasera. Parlo con la Lega per l'abolizione della caccia? Sì. Abbiamo questa invasione di queste cimici asiatiche. Solo allora, che io sono perfettamente d'accordo con lei. Bisogna trovare dei metodi naturali. Io ho provato con un olio di geranio, però francamente i risultati sono stati abbastanza deludenti. Ecco. Parliamoci, anch'io cerco di spostarle tutte prima di aprire e chiudere, però si infilano. Anche lei sposta gli animali come faccio io? Mancherebbe, lo faccio, l'ho sempre fatto, come vado a raccogliere i rospi quando c'è la migrazione. Lei anche quelli che raccolgono questi disgraziati che attraversano la strada, sono i rospi e ululoni? Il buffo buffo, anche gli ululoni proviamo. Pronto? Sì, buonasera. Parlo con la Lega Italiana Protezione Uccelli. Mi dica, se posso aiutarlo. Sono magari praticamente accerchiato da uno sciame di cimici cinesi. Io solitamente quando prendo degli insetti ci appoggio sopra un bicchiere, passandoci sotto con una cartolina, in maniera lui riesce intrappolato dentro. Ovviamente si infila piano la cartolina in maniera che lui abbia il tempo di arrampicarsi sopra. E così non si fa del male? Così non gli si fa assolutamente nulla, non lo si tocca, non si rovina in nessuna maniera. Io faccio così con tutti gli insetti di casa, per intendersi, quelli che entrano in casa. Cioè, tu capisci, Parenzo, che la gente non ha veramente un cazzo da fare, ma quanto tempo devi perdere con il bicchiere e la cartolina per salvare? Io posso capire, salvi una farfalla, nessuno di noi prende questo. Devo dire che c'è anche una piccola incoerenza, perché la farfalla non la schiacciamo, no? La farfalla, certo. La cimice sì, però è normale, questo è una cosa assolutamente normale. Cioè, questi qua con la cimice, che cos'è che ho sentito? Mi sono appuntato le cose, la non violenza con la cimice non l'avevo mai sentita. Io sono uno che pratica. Beh, ma questi animalisti sono così, la non violenza, gli ultrasuoni, provi con gli ultrasuoni. Allora, io ho sentito la non violenza con la cimice, gli ultrasuoni, bicchiere e cartolina, spostarle. Mamma mia. Allora, dove andiamo? Paola Milano, vai. Paola. Oh, Paola. Pronto? Sì, dimmi, vai. Vai. Paola, vuoi parlare o no? È la radio questa, non è la. Non è casa tua. Sono io in linea. Oddio mio, sempre mi tocca sempre ripetere la stessa. Io sono Silvia da Firenze, scusa. Silvia da Firenze, mi hanno scritto delle cose. Scusami, scusami te. Mi hanno scritto male le cose. Silvia da Firenze. No. Non sapevo se beh, hanno scritto male, io. Dai, vai, tranquilla Silvia, scusami, non è colpa tua. No, no, volevo solo dire questo, che prima sentivo Adinolfi che diceva che secondo lui La donna è sottomessa perché nella bocca della donna non ci sono organi che possano provare piacere facendo l'atto del pompino. Sì, esattamente. Allora, Quanti anni hai tu, Silvia? Quanti anni hai? Sono un po' matura, 52. 52? Perché c'è troppo matura? 52? Ancora si fanno pompini a 1000, 52 anni. Certo, ci mancherebbe. Ma è normale? Sembra che sto parlando, mi guardano tutti, parlando di cose normali che avvengono nella quotidianità delle persone. Sembra strano anche che se ne discuta come se fossero... Cioè, signora Dinolfi ha posto una questione anche surreale. Cioè, parlare di che cos'è sottomissione e cosa non è sottomissione. A proposito della fellazio, che è un atto assolutamente... Come dire, naturale... Mario? Pronto? Aspettalo. Mario? Era Mario, scusa. Il suo respiro. Prego. Dimmi, Silvia, dimmi. No, io volevo solo dirgli che, a parte il fatto che già solo il bacio... è un atto molto eccitante, quindi c'è qualche cosa di sessuale anche nell'organo della bocca. Però gli volevo dire che esiste anche un'eccitazione mentale che fa provare piacere alla donna quando fa un atto che sa benissimo che sta mandando in estasi il suo compagno in quel momento, e questa eccitazione mentale è piacevolissima per la donna, quindi, e non è una sottomissione. No, vabbè, ma adesso Silvia ci stai dicendo una cosa scontata, cioè, almeno per me è scontata, dovresti parlare con col professore lì. Non conosce questi aspetti degli atti sessuali. Vanessa L'Aquila li conosce molto poco, anche se poi oggi ha detto in realtà che ha una lunga esperienza da questo punto di vista, ma che ti devo dire, amica mia? Vanessa, vai, L'Aquila. Vanessa. Io l'esperienza di Adinolfi sinceramente non la so e non la voglio sapere. Vabbè, che c'entra, realtà... Vanessa? Ognuno, non è che perché uno pesa 150 kg non fa sesso, lo vedi così, no, non diciamo ti piace. Non è il mio ideale di uomo. Va bene, d'accordo, non sarà il tuo ideale, però non essere razzista, dai, col professore Adinolfi. No, non sono razzista, è una questione di piacere. Ad ogni modo, secondo me, è come, cioè, Silvia mi ha preceduta, ha detto quello che pensavo anch'io, cioè è esattamente il contrario, è un atto di grandissimo potere da parte della donna, che in quel caso sottomette l'uomo, perché nel momento in cui una donna pratica la fellazio è la donna che sottomette l'uomo, perché l'uomo è completamente inerme. No, ma lo capisco, è così, cioè è così. Adesso secondo me non è nemmeno, cioè se proprio uno deve discutere, se proprio uno ci deve riflettere, è come dici tu. Anche se poi ci può essere anche un atto di dominazione maschile nel praticare in un certo modo. Però sicuramente è più una dominazione da parte della donna, che in quel momento potrebbe... cioè ha l'uomo nelle proprie mani, o in questo caso nella bocca, se vogliamo essere proprio specifici. Però... No, se vogliamo proprio essere precisi. Bene, dove andiamo? Arianna Vicenza, chi c'è? Ancora donne? Bene, ottimo. Arianna, vai. Ciao, buonasera, sono Arianna. Io chiamavo per la questione della ragazza che è stata scartata da un lavoro perché era obesa. Sì, io poi sì. Su internet ho visto le foto e effettivamente... come diceva l'ascoltatore da Bergamo, non corrisponde all'ideale di una bellissima ragazza. Però io volevo dire che anni fa, quando lavoravo a Venezia, ho lavorato per dei negozi di retail di grandi marchi italiani di alta moda, perché sai che a Piazza San Marco sono tutti Dolce Gabbana, Gucci, eccetera. Ebbene, io, che non sono obesa, ma semplicemente ho una quinta di seno, sono stata scartata da un'azienda italiana produttrice di intimo, che puoi capire chiaramente qual è, perché sono stata definita troppo esuberante. Premetto che io sono una taglia 42, una quinta naturale, quindi non ero né grassa né niente. Quindi la discriminazione esiste un po' in tutti e due i sensi, sia che una sia un po' bruttarella, se vogliamo dire così, che poi non è neanche corretto definirla così. Non ho capito bene, scusa Arianna, cioè, sei stata discriminata perché la quinta di sera? Perché questa azienda, che tra l'altro io sono veneta e l'azienda è veneta anch'essa, non ha fra il target delle proprie commesse di negozio. Esatto, vabbè, ma tant'è adesso, che neanche fa la quinta. Ho capito, però insomma, adesso non mi pare una grave discriminazione questa qua. No, per carità, però voglio dire, non è che solo se sei bruttina vieni discriminata. Come diceva l'ascoltatore di Bergamo, tante volte non è solo in un senso rispetto all'aspetto fisico, ma anche in tanti altri. Ma quella è una cosa... Però, appunto, se lei avesse lavorato, si torna alla questione che dicevo io con la prima signora, diciamo, oversize, che abbiamo intervistato, cioè... Se lei avesse lavorato in un altro contesto, ad esempio in un ristorante, l'avrebbero presa immediatamente con gradevolezza, se dovessimo rimanere alla tesi del assolutamente, professor Cruciani. Assolutamente, cioè, in quel contesto là era fuori mercato rispetto ai prodotti che quell'azienda fa. Però, ripeto, una signora grassa che è in un ristorante è una delle immagini migliori che si possono dare, meravigliose. Ma evidentemente secondo alcuni ristoranti no, perché tu sai benissimo che nei ristoranti ormai ci si va quasi per dimagrire, diciamo, non per ingrassare, per cui una grassa è controproducente. Vabbè ragazzi, mi avete rotto i coglioni, ci sentiamo domani, anzi no, lunedì, solita ora, ciao. Zanzarosi, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.